Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. I computer del futuro, i cosiddetti computer quantistici, saranno completamente diversi dagli attuali, diversi quanto lo è un pallottoliere da una calcolatrice scientifica. Al posto di transistor, diodi, condensatori, le unità di calcolo e di immagazzinamento delle informazioni saranno costituite, pensate un po', da singoli atomi o addirittura da singole particelle. Per esempio, ogni elettrone ruota su se stesso generando un piccolo campo magnetico locale. In gergo si parla di spin dell'elettrone. Ebbene, associando la rotazione dell'elettrone in un senso al numero 0 e nel senso opposto al numero 1, e a patto di saper manipolare questo senso di rotazione, si dispone degli elementi fondamentali per eseguire dei calcoli e per memorizzare delle informazioni. Però computer basati su queste proprietà, proprietà quantistiche di atomi e particelle, sarebbero, come dicevamo, incommensurabilmente più potenti dei computer attuali, e un passo avanti in direzione della loro realizzazione è venuto da una ricerca finanziata da Fondazione Cariplo e condotta dal Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università Milano Bicocca. È stata appena pubblicata su Nature Communications questa ricerca e noi abbiamo in linea con noi il responsabile, Fabio Pezzoli. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, Pezzoli, naturalmente ricercatore dell'Università Milano Bicocca. Ecco, dicevo, i computer quantistici promettono di essere molto più potenti degli attuali. Perché? Il motivo è che i computer classici risolvono un problema cercando tra tutte le possibili soluzioni. Giusto per fare un esempio, se voglio trovare il numero di telefono di una persona in un elenco telefonico, un computer classico inizia a cercare il nome della persona partendo dalla lettera A e poi giù fino alla Z. E se rilegge tutti, uno alla volta però. Sì, esatto, leggendoli tutti uno alla volta. Mentre in un computer quantistico i calcoli vengono effettuati, per così dire, in parallelo. Questo perché l'informazione, il 0 e 1 dell'informazione, per le proprietà quantistiche che sono completamente bizzarre, si trovano nella cosiddetta sovrapposizione degli stati, ovvero possono essere contemporaneamente sia 0 che 1 allo stesso tempo. E quindi è un po' come se questo computer riuscisse a leggere di botto contemporaneamente tutti gli indirizzi che sono presenti nella rubrica telefonica. È corretto? Assolutamente. Perché riesce contemporaneamente a essere su tutte le pagine, ecco, mettiamolo così, detto in modo forse un po' terrificante, ma sì. per capirsi. Sì. Ecco, ma veniamo all'oggetto della vostra ricerca, che abbiamo detto avvicina, no, questa prospettiva. Che cosa è che avete scoperto? Noi da tempo che stiamo lavorando su materiali come il germanio e il silicio, ed in questa ricerca abbiamo scoperto che quando si ingegnerizza cristalli di germanio in strutture che hanno dimensioni addirittura 1000 volte più piccole rispetto a una cellula di globulo rosso, allora in quel caso si manifestano tutte quelle proprietà di fisica quantistica che rendono interessante il materiale, proprio perché consente di mantenere a lungo la memoria di informazione dello spin. Quindi in questo studio abbiamo dimostrato quanto a lungo può vivere lo spin. Non solo, ma un altro elemento importante che siamo riusciti a dimostrare sperimentalmente una teoria diversi anni fa, che parla di quanto sia possibile manipolare lo spin utilizzando dei campi elettrici o campi magnetici esterni al materiale per poter controllare l'orientazione dello spin. Ecco, non so se posso provare, diciamo, a dirla in un altro modo. Diciamo che questi qubit, questi bit quantistici che hanno questa proprietà straordinaria, che oltre allo 0 e l'1 possono assumere tutti i valori intermedi, era quello che dicevamo prima con questa idea della sovrapposizione. Ecco, i computer per funzionare hanno bisogno di manipolare questi bit e di mantenere memoria del loro valore. Diciamo che voi avete dimostrato che con certe strutture del germanio si riescono a fare entrambe le cose, se si mantiene in vita l'informazione abbastanza a lungo e la si può anche manipolare abbastanza agevolmente, è corretto? Sì, assolutamente sì, abbiamo dimostrato che con un opportuno controllo del germanio è possibile realizzare sistemi in cui questi spin, questi qubit, siano meno fragili. Senta, quanto ci vorrà perché possiamo davvero disporre di computer quantistici? Quali sono gli ostacoli più grossi da superare? Beh, gli ostacoli più grossi da superare sono relativi al fatto che ad oggi questa è una ricerca di frontiera, quindi studi fondamentali che vengono effettuati prevalentemente a temperature prossime allo zero assoluto. Quindi parliamo di 270 sotto, gradi sotto, esatto, zero, giù di lì. 100 gradi sotto zero, esattamente. Quindi il primo scoglio da superare sarà quello di riuscire ad ottenere tecnologie in grado di funzionare a temperatura ambiente. Detto questo, la comunità europea stessa ha dato un orizzonte temporale suggerendo l'introduzione di queste tecnologie quantistiche nell'arco di qualcosa come 10 anni. Grazie allora Fabio Pezzoli e avanti così. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. È tutto, a lunedì.